niente, sto guardando su internet col tablet alcune cose. Roger, che te l'ha portato? Babbo Natale. Ah, è vero, me l'avevi già detto, sì. Fa. E ma la sorte è che ci vuole molta dimestichezza per usare questo apparecchietto. Mi dita un po'. Se sei zappatore, no, non riesci a usarlo. Sono che bisogna saperne almeno due strisce. Sì, cioè bisogna abituarsi a usare il tasto molto. E tu ce l'hai? No, negativo, a me Babbo Natale mi ha portato poco. E vabbè, già c'è sempre tempo per prendermi uno. Ascolta, beh, non c'è nessuno, no, non è comparso nessuno. Oh, non lo so, no. Oh, vabbè. Attenzione Fabrizio. Non c'è nessuno. Uno. Tutti belli sartulli dalle cene di Natale. Cappa, forse c'è già uno spumantino, non era male. Non era male, scusa, non ti ho copiato. Lo spumantino. Incicciato con un po' di spumantino. No, oh, io l'ho assaggiato così per vedere com'era. Non era male, dai. Cappa. Ma bisogna assaggiare ogni tanto. Tanto io bevo solo queste cose lì. Altre porcherie no, non ne bevo, tutta la base di vinelli così. Fai bene, meglio la natura, meglio cose naturali. Ma chi è che vuole entrare? Cara che ha posto l'abortante? Cioè, ti senti che sei l'inghidento? Qual è l'inghidento? Tu, se tu mantieni il servizio. Oh, cosa l'inghidento? Ui, San Luca! Ma lo senti Antonio, Luca? Lo sento basso basso io qua, Senti, Antonio. Ah, ma lo sento basso. E cappa, no, io invece lo sento alto. Ho attaccato a me. Mi spengo una cosa, entro fra due minuti. Ok. Thank you. c'è anche a te. Un attimino ti metto le cuffie. Prova così. Beh, adesso sera ti sento meravigliosamente, molto bene. Segnale 5, ma la radio è bella chiara. Cosa stai usando? Ecco, un buon apparecchio. Adesso è un buon apparecchio, molto bene. Che se a me queste piccane se non piace, ma sono comuni con la frente. Lo so, perché questo qui è un amplificato che bisogna avvicinarsi alla bocca lo stesso. Io sono abituato ad altri amplificati, che è lontano. Invece questo qui è il DMV, è il Proxer, è così. Cazzo, perché la risposta? Sì, questo qui sono così, questo apparecchio qua per va bene così, ma noi anche un tipo di apparecchio. No, guarda, io ce l'ho attaccata la bocca, così sarà 3 centimetri. La mattina presto anche 4 gradi ci sono. 4 gradi, cavolo, no, 4 gradi, almeno 4, però non ci sono 4 gradi. E ci difendiamo bene. Anche se io faccio la giornata soltanto da quella passeggiata, soltanto di spesso, ma la giornata si fa bene. Sì, quello sì. Ma qui come viene la sera o la mattina presto c'è un bel di freddo. Tempo suo è... è così, non mi dici che è il punto. Sì, sto usando sempre. Perché un ordine da poco, mi sono ordinato ora, mi metto a cordotto e vado, metto tutto insieme perché mi si è imballato l'altro e... l'ho ordinato nuovo. Papi mille. Dettaggi. No, l'ho preso nuovo, c'era anche l'occasione, ma l'ho preso, perché se poi sballato. Ho preso un uovo direttamente, 95 euro. qualche problema. Non mi viene la macchina, ma computer, ci sto pensando, non me lo ricordo. Ma si chiama... è famoso. No. Andare a guardarlo, e comunque praticamente questo computer, quando abbiamo comprato, scaldava, abbiamo comprato le ventoline da mettere sotto, tutto quanto, è un Asus, mi ha detto Marco adesso, un Asus. Praticamente questo qui, da quando l'ho comprato, scaldava molto, ho bruciato due alimentatori, gli ho preso il terzo alimentatore e mi si è attaccato addirittura il spinotto femmina all'attacco della corrente, che va dal trasformatore al PC, si è attaccato la femmina del PC e non riuscivo più a toglierlo fuori. Allora l'ho fatto al tecnico, ho smontato e mi ha praticamente ordinato il pezzo che doveva arrivare dall'America, ho aspettato un mese, perché dopo che l'ha messo mi ha durato quanto? Una settimana, un giorno lo stavo usando, si è tutto bruciato, boh, partito il PC. Dici, è così? Ma c'è mio figlio vicino, mamma. Che tuo figlio cosa sta combinando? Dorme la notte. Check.